Nei giorni scorsi abbiamo assistito appunto alla decisione della Corte Suprema statunitense di sovvertire questa landmark decision, decisione molto importante, Roe vs. Wade del 1973, che fino a 3 giorni fa appunto assicurava, o quantomeno doveva assicurare, la protezione a livello costituzionale, quindi nazionale, la libertà di aborto. Quindi fino a 3 giorni fa si poteva pensare magari a una veridicità dello slogan My Body, My Choice, adesso non è più tanto una realtà questa. La sovversione appunto nega questa protezione, lasciandolo in balia degli stati, che avranno la libertà e il potere decisionale di sancire la legalità o illegalità dell'aborto. Al momento il panorama geografico di questa questione delicata e fondamentale sta già prendendo forma, sembrerebbe si prospetti un 26 stati che andranno fortemente a limitare e anche quasi a negare appunto questa libertà. Ci sono già tante cliniche che in previsione di questa decisione, perché ormai il risultato un po' già si sapeva, hanno addirittura iniziato a chiudere, però diciamo che per il momento è un po' una situazione anche di stallo, ecco. Si dovrà ancora capire esattamente quanti stati e diciamo a che livello le limitazioni arriveranno. Quali sono le donne che subiranno maggiormente questa sentenza? Volevo intanto partire con una statistica, ovvero che gli aborti legali diminuiranno del 14%, e quindi quando si parla tanto di life, questo argomento che viene insomma tanto strumentalizzato contro diciamo l'aborto, in realtà il numero di vittime d'aborti non sicuri crescerà, e quindi non si parla tanto di pro-life, ma più che altro si andrà incontro a insomma un tasso mortale più alto. In questo panorama ovviamente sono le donne al centro della questione, soprattutto le donne che magari appunto dalle statistiche ricevono solitamente aborti e quindi che saranno più condizionate da questa sovversione, sono donne che solitamente non sono sposate, quindi che magari non godono effettivamente di un appoggio potenziale di un partner, donne che sono nella ventina, quindi che magari già non sono avviate in un proprio percorso diciamo lavorativo, professionale, che hanno solitamente comunque già di per sé un low income, cioè che vengono da classi socio-economiche, anche se non mi piace molto insomma usare questo termine qua, proprio basse, che magari già hanno anche un figlio e una figlia, e che quindi già hanno il sovraccarico di un'altra persona insomma a cui badare, e disproporzionalmente è anche molto legata a persone di colore, che saranno sicuramente tra quelle più appunto afflitte da questa questione, sia perché ovviamente partono già, come ben sappiamo, da una posizione diciamo di svantaggio a livello socio-economico, non godendo nemmeno fino a pieno di diritti insomma fondamentali, sia perché appunto c'è proprio questo overlap tra persone che appunto vivono in stati che andranno a limitare severamente questa libertà. Guardando un po' a che cosa si potrebbe prospettare, dato che questa decisione ormai è stata presa, ovviamente è una grande sconfitta, ecco. È una grande sconfitta, ma allo stesso tempo è una sconfitta a cui chi veramente lotta e ci crede assolutamente non ha voglia di accettare, ecco. Data questa questione si guarda al futuro, alle midterm elections, che appunto sono diciamo ogni 2 anni, insomma andremo incontro questo novembre, e si spera che, essendoci tanto fervore, tanta rabbia, tanto diciamo sentimento per quanto riguarda questa questione, che ci sia un grande movimento, un grande attivismo che porti persone che magari non erano tanto sicure magari della loro posizione, o che magari sono donne e sono repubblicane ma magari appunto sentono tanto per questa questione, questo possa essere appunto un punto cardine per portare un grande shift verso elementi, persone che andranno a candidarsi in queste elezioni che sono pro-choice piuttosto che non, e che quindi questa questione si possa in qualche modo potenzialmente un po' risolvere, o quantomeno diciamo minimizzare i danni a partire da novembre.